Certo che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo... È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza... Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, vuol dire, è qualcosa di immenso. Caccia al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Sabato 13 dicembre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. (3) 380 94 94 per inviare un sms e il solito e noto cacciafotone @ radiocittafugico.it per inviare una mail. Sito di riferimento www.cacciafotone.it. Ebbene, oggi parleremo di una teoria un po' particolare, una teoria che si intitola Bridge Theory, e ne parleremo con Massimo Auci, docente di fisica e matematica, vicepresidente di Odisseo Space e divulgatore scientifico su Gravità Zero. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, come al solito ci sono 100 parole iniziali per provare a descrivere questa teoria e poi la esploreremo meglio nella trasmissione. 100 parole. Beh, innanzitutto la Bridge Theory non è un artificio, non è un sistema solo matematico che permette di arrivare a delle conclusioni di comodo, ma è una naturale conseguenza, uno sviluppo della teoria elettromagnetica classica, dalla quale si può arrivare a trovare dei risultati in maniera naturale che sono quantistici e relativistici. Ma già si sapeva che la teoria era una teoria, la teoria elettromagnetica è una teoria naturalmente invariante, ma in questo caso riusciamo a avere un collegamento naturale, formale e concettuale tra la fisica quantistica, la fisica relativistica e la fisica cosiddetta classica, quella del mondo macroscopico. Un legame tra il macroscopico e il microscopico che deriva in maniera naturale. Il lavoro nasce partendo da un'idea di fondo, il fatto che la più semplice delle sorgenti elettromagnetiche in natura è una coppia di cariche, una carica positiva e una carica negativa. Però il problema era riuscire a cioè parlare di fisica senza mettere insieme la massa, senza mettere insieme altri problemi che derivano dalla meccanica e dalla presenza di elementi esterni ai campi elettromagnetici puri. Quindi facendo questo tipo di lavoro ho provato a costruire un modello e mi sono accorto che in questa semplice sorgente, senza tante costruzioni, l'energia che viene prodotta non tutta fluisce all'esterno. Rispetto a un osservatore che si trova in una qualunque posizione dell'universo, una sorgente di quel tipo non emette tutta l'energia, cioè una parte viene localizzata. Quindi mi sono incuriosito e ho provato a vedere quanto valeva quella quantità localizzata e ho scoperto che proprio quella quantità è formalmente, quantitativamente uguale a quella di un fotone. Quindi il fotone e il quanto, e da lì ho cominciato la strada verso la meccanica quantistica. E come potevamo noi non occuparcene, visto che ci chiamiamo caccia al fotone? Il fotone è esattamente una naturale conseguenza dell'elettromagnetismo classico. Noi diciamo classico, ma parliamo pure dell'elettromagnetismo. Classico è perché è stato il primo a essere scoperto. Ora, da lì si sa che si può quindi entrare nel mondo della fisica del microscopico con continuità, senza introdurre concetti estranei. Massimo, di tutto questo ne parleremo nel proseguo della trasmissione. Intanto metto il primo pezzo musicale, che sono i Singletons con Finalist Song. This is the fire. us up. We'll leave this planet to a starry sky. E bentornati a Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fuggivo. We go to highway, we go from this world. Absolutely insane. Massimo, prima di tutto io ho conosciuto questa teoria andando a leggere un libro che si può trovare su Gravità Zero, è un sito di divulgazione scientifica, e questo libro è un libro un po' particolare che hai scritto tu sotto licenza Creative Commons. Allora, prima di tutto ti voglio chiedere come mai hai scelto proprio questa licenza per divulgare una storia di una vita in cui provi a spiegare una teoria particolare che ti ha coinvolto dal 77, se non erro. Dal 79, quindi questa teoria è più o meno la mia stessa età, è molto bello. Ma innanzitutto il libro è nato dopo aver cominciato un'avventura con Gravità Zero, no? Di divulgazione scientifica. E il libro è nato come una raccolta degli articoli, dei primi articoli che ho scritto su Gravità Zero, parlando di Bridge Theory, ma non tanto per la Bridge Theory, ma tanto per far capire come può essere bello, interessante, può essere coinvolgente fare della ricerca scientifica. Molte persone pensano che sia una cosa noiosa, che la matematica, la fisica sia arida. In realtà questa teoria mi ha accompagnato, questo pensiero, questo modo di fare ricerca mi ha accompagnato per 30 anni della mia vita e mi ha fatto passare 30 anni piacevoli in tutti i momenti. Senti, la prima domanda che ti voglio fare è: come hai fatto a scrivere un libro di meccanica quantistica senza utilizzare una sola formula? Forse perché molte volte mi hanno chiesto di spiegare delle cose, e allora mi sono trovato nell'impossibilità di poter usare dei formalismi e mi sono un po' specializzato nell'usare le parole al posto delle formule. E infatti. Senti, la teoria si chiama Bridge Theory, e quindi teoria ponte, ma ponte esattamente per quale motivo? Che cosa fa questo ponte? Chi sarebbe il ponte? E attraverso quali isole facciamo questo ponte? Partendo dall'elettromagnetismo si raggiunge, con la teoria si raggiunge la meccanica quantistica, sia a livello di formalismi, sia a livello di concetti. Però c'è un passaggio che non può essere trascurato, altrimenti si farebbe un collegamento non corretto concettualmente. Il passaggio è proprio la Bridge Theory, cioè la possibilità di raggiungere, partendo da semplici fenomeni elettromagnetici, semplici nell'ambito ovviamente della teoria elettromagnetica classica, arriva a raggiungere dei concetti che sono fondamentalmente quantistici, come il principio di determinazione di Heisenberg, come la prima quantizzazione, l'esistenza dei fotoni, la quantizzazione dell'energia, ma arrivare sempre con lo stesso tipo di ragionamento, senza introdurre nulla di nuovo, arrivare alla relatività, a concetti puramente relativistici, senza avere a che fare con i principi di relatività ristretta e generale. Nella Bridge Theory esattamente il fotone che cos'è e come si crea? Immaginiamo che ci sia una sorgente elettromagnetica formata da queste due cariche, cosiddetto un dipolo, no? Un dipolo come potrebbe essere pensato come un'antenna da televisione. O come una calamita, in questo caso però non è campo magnetico ma è campo elettrico. Se queste cariche si muovono, se c'è un passaggio, un movimento di carica, si crea un campo elettrico e un campo magnetico che generano un'onda elettromagnetica. Ora, se questa sorgente è molto piccola, piccolissima, e noi siamo grandi, osservatori molto grandi, la possiamo vedere come una sorgente che emette onde sferiche, quindi in tutte le direzioni l'energia emessa è la stessa. Ma se siamo piccoli e andiamo dentro, ci rendiamo conto che il campo non è radiale, cioè praticamente non esce in tutte le direzioni nello stesso modo, ma una parte non esce proprio, ci vuole del tempo perché esca, ci vuole spazio e tempo. E in quel caso, se andiamo a vedere l'energia che non esce fuori, se andiamo a vedere la quantità di moto, quindi energia impulso cosiddetto, che non esce fuori, quella corrisponde a un fotone. E la cosa più stravolgente che mi ha impressionato già all'epoca del 1980, quando facevo i primi calcoli, è che i risultati erano per la costante di Planck. Che cosa sarebbe esattamente la costante di Planck? È una costante di proporzionalità, cioè per la meccanica quantistica l'energia è impacchettata in pacchettini di energia, non può variare con continuità, ma varia in funzione di un numero multiplo di questi pacchettini. Quindi diciamo è come se fosse l'energia una specie di cassetta di mele in cui le mele pesano tutte uguali. Esatto, il fotone è un contenitore di energia, e l'energia è proporzionale alla frequenza dell'onda, e la costante di proporzionalità, quindi un fattore di capienza diciamo, è esattamente la costante di Planck. Bene, quella è uscita nei calcoli teorici con una precisione direi senza approssimazioni, praticamente la precisione dipende solo dalla bontà del calcolo, e quella è la cosa più stravolgente, visto che fino ad allora veniva considerata una costante fondamentale, quindi una costante fisica da poter misurare e non da poter calcolare. Ma ne uscì in realtà un'altra, che è una costante adimensionale a questo punto. Sì, è la più, forse più interessante, la più sconvolgente di tutte. Sì, in effetti sono rimasto sconvolto anch'io dopo aver comunque sapendo che la costante di struttura fine, che è una costante atomica che di solito è calcolata in base alle altre costanti fondamentali, lei è solamente una costante di struttura detta costante d'accoppiamento tra carica e campo magnetico, anche lei è una costante di proporzionalità sostanzialmente. Sconvolgente è rendersi conto che lei viene calcolata tranquillamente dalla struttura del fotone, quindi dalla struttura elettromagnetica del campo, come un numero puro che è quello e deve essere assolutamente quello, perché non può essere diverso, perché quella è la matematica, non la fisica, è la matematica del fotone. Ma quindi il problema delle costanti nelle teorie che abbiamo oggi è che le costanti devono essere quella quantità, ma non sappiamo perché hanno quella quantità. Il problema delle costanti è il problema dell'ignoranza, nel senso che un costante fondamentale è così, costante universale, però non so perché vale così, ha quel valore, non so perché ha quel ruolo. Allora, scoprire il ruolo di una costante significa penetrare la conoscenza, riuscire a superare una frontiera, riuscire a capire meglio il perché delle cose. Quindi proprio perché la Bridge Theory scopre il valore di due costanti, questo potrebbe essere indice della bontà della Bridge Theory? Beh, dal mio punto di vista sicuramente sì. È chiaro che esistono punti di vista contraddittori che dicono che assolutamente quello è un artificio, e cosa che io non credo assolutamente, perché bisogna prima dimostrarlo, e anche perché i risultati sono incontrovertibili. Il fatto di due costanti forse non è esatto, nel senso che la costante di Planck è in funzione della costante di struttura fine, per cui il risultato fondamentale è la costante di struttura fine. Quella di Planck offre altri spunti di meditazione, ma in ogni caso è un valore che sicuramente è universale, perché è universale il valore della velocità della luce, perché è universale il valore della carica, perché è universale la costante come un dato del fotone. Senti, ieri quando ci siamo incontrati e hai provato a spiegarmi la Bridge Theory, mi ha sconvolto il fatto che anche il fenomeno dell'entanglement, cioè il fatto che una particella risenta di quello che sta succedendo a un'altra particella a distanza, tra virgolette, cosmologica, si riesca in qualche modo a spiegare tramite la Bridge Theory. Ora, tu hai parlato di dipolo, esattamente come c'entra il dipolo con il fenomeno dell'entanglement? Beh, nel momento in cui noi generiamo una carica si genera anche la carica opposta, quindi il dipolo è una coppia di cariche che nasce e continuerà a vivere. Dal momento della nascita fin quando quelle cariche non verranno a modificarsi per qualche motivo che non possiamo neanche immaginare, quelle cariche saranno sempre accoppiate, genereranno sempre una sorgente con energie basse, con densità bassissime, ma quello che continueranno sempre ad avere è un collegamento attraverso la costante di Planck. il loro spin è sempre accoppiato. Lo spin esattamente è, diciamo che è un momento angolare, è un indice della rotazione interna del campo vettoriale elettromagnetico. Ok, diciamo che lo spin positivo è una rotazione verso l'alto e lo spin negativo è una rotazione verso il basso. Ora, visto che quelle due cariche quando si generano hanno spin zero, quindi non c'è rotazione, rappresentano un fotone virtuale nella loro creazione e continueranno quindi a essere accoppiate con uno spin verso l'alto e uno spin verso il basso. Non importa dove si trovano e a che energia viaggiano. Nel momento in cui in qualche modo io vado a cambiare lo spin di una di queste cariche, anche l'altro istantaneamente deve essere cambiato, perché altrimenti si contraddirebbe alla conservazione dell'energia della quantità di moto. E questo è previsto dalla teoria? E questo è previsto dalla teoria. Quindi senza aggiunte ulteriori come fenomeni dell'entanglement, ma proprio previsto dalla teoria. Sì. Allora Massimo, ci ascoltiamo un po' di musica, torniamo subito in studio e riaffacciamoci sugli altri argomenti. Bentornati a Caccia al Fotone. Al 333-180-94-94 ci arriva un sms. E Gianni che ci chiede: questa teoria che cosa ha di diverso rispetto alle altre? Massimo, questa è la domanda che ci aspettavamo. Beh, diciamo che ogni teoria spiega un aspetto o più aspetti della realtà fisica. Questa teoria spiega perché le altre teorie spiegano gli aspetti della realtà fisica. Cioè, fino adesso noi siamo costretti a utilizzare teorie ottime, perfette, che danno delle spiegazioni esaustive di aspetti fisici che altrimenti non potrebbero essere compresi. Il problema dove sta? Che ogni teoria ha una nascita diversa, cioè nasce da dei fondamenti diversi, da dei presupposti diversi. Bene, la teoria di Bridge in realtà li mette d'accordo, perché si parte dallo stesso presupposto, cioè dal fatto che nell'universo esistono cariche in movimento, senza considerare null'altro riesce a generare, a comprendere i formalismi della meccanica quantistica, i formalismi della relatività, riesce a comprendere addirittura un grande dogma della fisica, il dualismo wave matter cosiddetto, no? Il fatto che la materia si comporti in certi momenti come un'onda e in altri momenti come invece una particella materiale, un corpuscolo. Massimo, alla fine la teoria di Bridge nasce dalla necessità della fisica di trovare un'unificazione dei concetti in questo caso specifico. La fisica ricerca un'unificazione delle forze, ricerca un'unificazione quindi nell'universo, cioè il fatto che l'universo abbia un unico istante di nascita, dove in quell'attimo tutto quello che è nell'universo è compreso. Quindi se voglio studiare degli atomi e delle galassie posso usare le stesse teorie? Ma certamente, nel senso che esiste ovviamente, partendo dalla Bridge Theory, esistono dei concetti fondanti. Se si usano questi concetti fondanti si riesce ad arrivare a costruire un modello atomico che non è diverso da quello che noi conosciamo in termini di struttura, e in termini formali addirittura riesce a migliorare certi risultati, specialmente nell'analisi spettrale si riescono a riprodurre valori con ottime precisioni, senza correzioni, senza nulla. Ma la cosa principale è che si parte dai concetti fondanti e si riesce a parlare di atomi, si riesce a parlare di materia oscura, si riesce a parlare quindi di formazione della materia e quindi poi anche delle galassie, senza arrivare grossi problemi, insomma. Senti, esattamente quali conseguenze prevede questa teoria? Ieri parlavamo del fatto che, per esempio, un atomo è effettivamente un dipolo. Al centro abbiamo il segno più, al lato quindi abbiamo gli elettroni che hanno segno meno, e quindi un atomo intero può essere considerato come un dipolo. Visto che la Bridge Theory lavora sui dipoli, quali conseguenze prevede questa teoria dal punto di vista fisico e dal punto di vista concettuale? Ma intanto un atomo può essere considerato come un dipolo, ma se noi andiamo a considerare un atomo come un dipolo non funziona. Dobbiamo scomporre un atomo nelle cariche che lo formano, quindi il nucleo è fatto da protoni positivi e gli elettroni negativi che lo circondano. Per ogni coppia più o meno che possiamo individuare possiamo considerare un dipolo. A quel punto, se andiamo a vedere l'energia complessiva del sistema, bene, l'energia complessiva del sistema è quella che ci si aspetta per un atomo e per un elettrone che si trova ad un certo valore energetico. Quindi i livelli di energia vengono riprodotti in questi termini, molto semplicemente considerando la somma delle energie, delle quantità di moto delle singole coppie, dei singoli dipoli che formano l'atomo. Senti, posso chiedere esattamente che cosa ti stupisce di più di questa teoria, visto che insomma tu ci hai lavorato ormai da 30 anni e la conosci anche nei minimi dettagli? Che cosa ti ha stupito di più in realtà? Quali risultati ti hanno fatto sobbalzare sulla sedia? La cosa che mi stupisce ancora di più, e infatti è lì che sto cercando di capire perché, è il fatto che non ho bisogno della massa per fare nessun tipo di lavoro, nessun tipo di esame. Mi bastano le cariche. La massa sembra che esuli dalla teoria, sembra essere un problema a parte. La teoria è in grado di prevedere gli scambi di energie, in grado di prevedere la struttura, in grado di prevedere tutto, tranne le masse fondamentali delle particelle. È come se queste masse fondamentali fossero non decisive per la struttura del mondo. Quello che mi sta ancora stupendo è che comunque rimane al di fuori dell'ambito della Bridge Theory. X salta? Ma diciamo che X è chiariamo un attimo, sì. X, l'universo dovrebbe essere composto da un oceano di Higgs, e in questo oceano di Higgs in qualche modo si crea la materia. Higgs c'entra qualcosa con la creazione della massa attraverso la Bridge Theory? Ma allora, il problema fondamentale è che noi non sappiamo che cos'è Higgs. Allora, questo è sicuro, perché non l'abbiamo trovato. Allora, il Higgs è un bosone che sarebbe responsabile della realizzazione della massa delle particelle. Il problema è che se X potrebbe essere chiamato X o chiamato in un altro modo, allora io devo essere sincero, quindi nell'ambito della teoria devo poter andare a lavorare con la teoria senza introdurre concetti esterni, quindi la teoria deve essere autoconsistente, altrimenti non sarebbe valida, buona. Allora all'interno della teoria potrebbe comparire l'equivalente di X. Bisogna vedere se si chiama X o si chiama in un altro modo. Vediamo un po' se per caso salta fuori. Noi ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo musicale, poi torniamo subito in studio per le conclusioni finali. Don't even think about you. I don't be as no lie. siamo in conclusione di trasmissione. Massimo, che cosa ti aspetti per il futuro di questa teoria? Beh, fondamentalmente, visto che ci ho lavorato tanto tempo, mi aspetto che possa essere utile alla comprensione dei fenomeni che ancora non conosciamo. Non pretendo e non credo che una teoria sia fondamentale e che in qualche modo spieghi il tutto, però mi auguro che almeno riesca a superare quelle impasse concettuali, filosofiche che comunque al momento nella fisica di tutti i giorni affrontiamo e che conosciamo bene. Possiamo ricordare esattamente dove poter prendere questo lavoro, il lavoro del 1999, e dove possiamo seguire i tuoi lavori di divulgazione scientifica, quelli che possiamo leggere tutti i giorni? Allora, questo lavoro del 99 si trova online perché viene venduto dalla casa editrice che ha pubblicato l'International Modern Physics, che ha pubblicato l'articolo del 99, e si trova online comunque anche a Gravità Zero, perché se viene richiesto ne forniamo una copia. Poi sì, io continuerò a scrivere ancora, anche se non assiduamente, ma compatibilmente con i miei tempi, continuo a scrivere su Gravità Zero nell'ambito della divulgazione scientifica. Massimo, allora in bocca al lupo per la Bridge Theory, in bocca al lupo per il lavoro di divulgatore scientifico all'interno di Gravità Zero e anche fuori di Gravità Zero, perché ricordiamo che sei vicepresidente di Odysseo Space. Io saluto i nostri radioascoltatori, ti ringrazio ancora per essere intervenuto all'interno di Caccia Fotone e, come al solito, do l'augurio di buona scienza a tutti. Grazie a tutti.